Alguan. Stanza fredda, scrivere di me come di una persona orrenda. Da fuori sembro buono, ma dentro sono un mostro. Mi guardo nello specchio, quasi non mi riconosco. E sai, a volte penso al male che ti ho fatto. Lo rifarei senz'altro. Non sapete manco che le cace stanno da capa mia. C'è arrivato punto che non saccio manco chi son chi. Sì, sono un mostro. Sono un mostro. È grazie a voi che sono un mostro. Sono un mostro. Sono un mostro. Sono un mostro. Sono un mostro. Sono un mostro. Sono un mostro. Sono un mostro. Sono un mostro. Stai attento. Stai attento. Sono un mostro. Sono un mostro. Non avvicinarti. Non avvicinarti. Son diverso. Son diverso. Stai attento. Stai attento. Sono un mostro. Sono un mostro. Non avvicinarti, non avvicinarti. Son diverso, son diverso. Tieni a mente, non so fare niente. Sono quello che se non c'è, ma dai fa niente. Quello che se parla tanto non lo stai a sentire. E se mi senti, continui a non capire. Come mi muovo, distruggo ciò che mi circonda. Mi sotterro sotto un abisso che mi sprofonda. Sono lo stupido che spera di essere accettato, dove non può esserlo perché è nato sbagliato. Eh no, eh no, eh no. Sono diverso. Stai attento, stai attento. Sono un mostro, sono un mostro. Non avvicinarti, non avvicinarti. Son diverso, son diverso. Stai attento, stai attento. Sono un mostro, sono un mostro. Non avvicinarti, non avvicinarti. Son diverso, son diverso. Stai attento, stai attento. Sono un mostro. Non avvicinarti, avvicinarti. Son diverso, son diverso. Stai attento, stai attento. Sono un mostro, sono un mostro. Non avvicinarti, avvicinarti. Son diverso, son diverso.